ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su Aruba.it. Melog. Il piacere del dubbio. Gianluca Nicoletti. Allora, io feci la scissione quando 20 anni fa lasciai i miei improvvisamente una sera, mentre così e me ne andai in questa grande città che è Roma, e da allora insomma sono rimasta qui, sono contentissima della scelta che feci, anche se quella sera non dissi niente ai miei, né a mia madre né a mio padre, perché giustamente già l'avevano capito che me ne sarei andata e non sarei più tornata. Dirlo all'ultimo momento, dirlo quando proprio le cose ormai sono già fatte, non dare tempo di pensare o di agire. Questa comunque è una strategia, una exit strategy, una maniera per tirarsi fuori da un impiccio e da un problema. Io oggi vi ripropongo alcune chiavi di lettura dei vostri comportamenti, anzi di quelle che sono le mie forzature in 30 secondi delle soluzioni di uscita da alcune situazioni, alcuni comportamenti, perché ritengo che questo sia una sorta di manuale di sopravvivenza. Un altro uso dei 30 secondi in una versione maggiormente meditata e approfondita è quello di usarlo come un manuale di sopravvivenza. Oggi vi darò alcune situazioni che abbiamo toccato con i 30 secondi, ci rifletteremo e capiremo meglio come prendere come illuminanti esempi di comportamenti utili nella vita quelle che sono le biografie, gli stralci biografici di alcuni nostri ascoltatori che abbiamo racchiuso dentro la gabbia dei 30 secondi, che sembra essere quella proprio fisiologicamente più funzionale a raccontare una microstoria che fa parte delle tante che compongono una vita. Io ho lasciato il lavoro con la mia strategia, chiaramente, quindi ho aspettato di avere un'offerta interessante e siccome diciamo che hanno iniziato a tirare dentro i parenti, a mettermi sopra persone non competenti ma legate semplicemente alla parentela con la dirigenza, niente, ho aspettato, ho trovato il mio nuovo lavoro e gli ho dato 15 giorni di preavviso, giusto perché avevo 22 mesi e mezzo di ferie arretrate. Quindi. Il primo era un caso di strategica uscita da un regime familiare che probabilmente ci tarpava le ali, non ci dava sufficiente garanzia di leggiadria o di leggiadra gestione della nostra vita, e quindi quando la ragazza deve dire alla famiglia che taglia il cordone ombelicale e se ne va per conto suo, aspetta a dirglielo all'ultimo momento. Guardate che è contrario ad ogni utile strategia di collaborazione familiare, come cambio casa. Io se un figlio mi dicesse me ne voglio andare di casa, vorrei saperlo un po' prima per poterlo aiutare nelle mie possibilità perché lo facesse in maniera più felice. Se quella ragazza ha scelto di dirlo all'ultimo istante e prepararsi da sola tutto il difficile percorso di organizzazione della sua autonomia di vita, due sono le motivazioni secondo me. Uno è il desiderio di finalmente riuscire a fare le cose con le proprie mani, senza aver bisogno dell'aiuto, del supporto, che è sempre un aiuto condizionato. Guarda che c'è papà, guarda che c'è mamma, molte volte significa ricordati che noi ci siamo, ricordati che ci devi comunque riconoscenza. Ecco, quando noi riusciamo nello splendore dell'atto più doloroso della nostra vita, separarsi da un figlio perché diventa autonomo, dobbiamo accettare che il nostro compito è finito. Poi sarà lui a decidere quanto ha bisogno di noi, se ha bisogno di noi. E non dobbiamo fare in modo che i figli si trovino nelle condizioni, questa ragazza, di usare un sotterfugio per dirsi che se ne va, perché sa che noi gli avremmo fatto comunque un ricatto morale. Il secondo caso è una persona che ha capito che sull'ambiente lavoro ormai per lui l'aria diventa pesante. Fortunato chi lo capisce in tempo, chi lo capisce tardi si trova sottoposto a azioni di mobbing pesantissimi, a azioni violente inenarrabili, di cui potrei raccontarvi a lungo. Beh, questo signore ha capito che non era più aria quando ha cominciato a vedere l'infilata dei parenti, dei grandi capi, incompetenti naturalmente, inefficienti, messi vicino a lui proprio per carpirgli competenza o magari perché lui debba supportare la loro incapacità. Quando ha capito questo, si è comportato da grande stratega. Non è che ha sbattuto i pugni sul tavolo dicendo: ho capito tutto, qua non va, non funziona. Fare il rompicoglione aziendale non serve nemmeno se si è dalla parte della ragione. Ha fatto buon viso a cattivo gioco, si è guardato intorno, ha avuto il tempo per trovarsi un altro lavoro e quando era ben sicuro e solido nel salto oltre l'ostacolo, li ha mandati a quel paese. La mia scissione è una scissione da un lavoro come dipendente al un altro lavoro, creazione di lavoro come libero professionista. Sono felice e finalmente sono utile a più persone, non soltanto ad un'azienda. Ho concluso, credo, i miei 30 secondi in anticipo, come sempre. Fine. Non ho altro da aggiungere. Forse sì, sono andata contro la mia strategia naturale, cioè quella di essere un libero professionista sin dall'inizio. Ha voluto questa signora specificare che in realtà anche nel lavoro molte volte diventa necessaria una strategia di uscita quando ci si rende conto che si sta stagnando in qualcosa che non corrisponde alle proprie vocazioni. Ora voi mi direte, in questi tempi il lavoro è lavoro, noi facciamo qualunque cosa, chi se ne frega delle vocazioni? Sì, questo può essere anche vero e giusto legato a una contingenza, ma se uno può scegliere, come questa signora che non ce la faceva proprio a fare la lavoratrice dipendente e aveva bisogno di questo suo margine di rischio, di fremito di autonomia, beh, quando l'ha fatto, per lei è stato un momento liberatorio e ci ha tenuto a raccontarcelo. Dunque, io sono pittore di trasformazione, praticamente mi sono scisso dalla pittura tradizionale, quella che posa pigmenti pittorici sopra dei supporti materici, quella che dura dal tempo di Cro-Magnon. Io ho inventato la pittura di trasformazione, il quadro liquido, un nuovo paradigma visivo, dipingo flussi dati. Questa dovrebbe essere una notizia, grazie a Ceronetti che mi hai lasciato questi 30 secondi per dirla, era da tanto che volevo farlo. Ceronetti, Uber Alex. Questo ho voluto farvelo risentire perché in sé c'era il paradosso dell'assurdo totale. Primo, scambiare chi modestamente non è nessuno come me, Nicoletti, in fondo è uno che chiacchiera alla radio, e Ceronetti, che è un illustre saggista, devo dire che mi sento lusingato, ma non sono Ceronetti, glielo ribadisco, giustamente, Ceronetti uber alles, ma non sono io Ceronetti. Su quello che è riuscito a fare, qual è stata la strategia di questo signore, non è stato molto chiaro, secondo me era un pretesto per sentirsi in pieno ceronettiano. Ha cambiato la pittura liquida, non so, dipinge con gli schizzi d'acqua, va bene, è una pittura quanto mai transeunte, immobilizzata nel momento di godura visiva, soltanto nell'attimo che lo schizzo d'acqua esce dal secchio e si appoggia nel terreno. Allora, diciamo che io sono un po' un esperto di scissioni, perché ho 25 anni e già ho cambiato città 4 volte. Sì, tutte le volte ero fidanzato, per cui ho dovuto praticamente mollare le relazioni poco prima di partire, no? In questi casi senza una strategia, l'unica strategia è quella che sarei partito e quindi in generale poi sarebbe solo difficile mantenere una relazione a distanza. Una volta solo ci ho provato, ma non è andata bene. Siamo qui. Certo è che tutte le strategie di separazione sono complicate, difficili, anche dolorose. Immaginate quanto sia doloroso dover mettere su due piatti di una bilancia una propria felicità, soddisfazione, benessere sensuale, amoroso, sentimentale, d'altra parte la necessità comunque di cambiare città per motivi occupazionali, professionali. È un bel dilemma, perché come l'uovo e la gallina, non si sa cosa mettere avanti nella gerarchia del c'ero prima io. Certo, l'amore è bello, ci riempie, ci soddisfa, ci fa star bene, ma l'amore è anche condizionato molto dalla nostra serenità, dal nostro benessere, dalla nostra solidità. Gli amori di due cuori in una capanna difficilmente resistono. La micragna corrode e uccide ogni amore, soprattutto in un momento in cui il potere d'acquisto è parte preponderante del fascino di una persona. E gli oggetti che ricoprono la persona, gli accessori, gli abiti, sono parte comunque del fascino di una persona. Insomma, tra un amore che potrà diventare micragnoso e una scelta di benessere che sarà foriera di tanti nuovi amori, il nostro ascoltatore probabilmente ha fatto la scelta giusta. Ma io voglio solo raccontare la mia storia con la mia ex moglie, dove nulla, io ci ho provato fino alla fine a mantenere il rapporto, ma nello stesso tempo mi ero organizzato con una seconda casa dei miei genitori senza riscaldamento. Ho resistito praticamente tutto l'inverno, come poi quando c'è stata la goccia che ha traboccato il vaso, che era aprile, gli ho detto, preso i miei quattro stracci, gli ho detto, oh, boh, basta, è finita, io ci ho provato fino alla fine, è finita. E lì ho cambiato vita, ho girato pagina e boh, è andata bene. Sì, è andata bene. Anche qui vi piace crearsi il retroterra, il rifugio sicuro. C'è un momento di crisi coniugale, gestisce la crisi convinto di potercela fare a uscirne fuori, perlomeno a rimettere insieme i pezzi. Però da persona previdente ha detto, prepariamoci anche una via di fuga. La via di fuga era, beh, miseramente una stanzetta non riscaldata, probabilmente uno sgabuzzino a casa dei genitori. Lui ci ha provato, certo l'altra parte faceva freddo, non c'era riscaldamento, a casa meno male il riscaldamento probabilmente lo pagava lui, probabilmente questa donna in qualche maniera gli rendeva la vita difficile, ma perlomeno forse lo scaldava, ma alla fine probabilmente ha scelto l'austerità del gelido giaciglio all'inferno di un tiepido rapporto coniugale. Allora, 1988, ero un carabiniere a Milano e dopo anni di meditazione su andare via o meno, perché i miei genitori erano entrambi invalidi dopo la morte di mia madre, avevo fatto tutte le interpellanze possibili e immaginabili senza nessuna risposta. Una mattina andai dal mio comandante, che era un colonnello, dicendogli arrivederci e grazie, la ringrazio e via. Lui, esterefatto, diceva perché, io ero molto tranquillo, una persona molto tranquilla, diceva perché te ne vai? Perché le interpellanze non sono state praticamente fatte. E lui ha detto, ma come le hai fatte? Io ho detto, sì, sono 3 anni che le faccio, ma te manco le prendi in considerazione, sostanzialmente. E me ne andai. Quindi anche qui un'altra persona che, pur vivendo nel rigore della gerarchia militare, aveva comunque delle richieste, avanzava delle richieste, c'erano delle interpellanze in cui magari alcuni militari potevano scegliere di cambiare destinazione, cambiare caserma, cambiare mansione. Questo signore ci aveva provato perché pensava anche nell'ambito rigido della gerarchia militare ci fossero delle possibilità, dei percorsi che lui poteva seguire. Non è detto che doveva essere soltanto credere, obbedire e combattere. Il suo comandante evidentemente, o il suo superiore, era molto interessato al suo lavoro, che era probabilmente di qualità, e faceva finta di non sentire, tanto che a un punto il soldato ha gettato il fucile a modo di dire, fucile, ha gettato le giberne e le scartoffie alle ortiche e si è ritornato alla vita civile. Dunque, l'anno scorso mi sono laureato e finito gli studi ho preso lo zaino, sono andato a viaggiare 8 mesi in Sud America, dove a gennaio ho conosciuto questa ragazza argentina, è stata una storia d'amore, ci siamo visti e rivisti in Sud America più volte, poi lei quest'estate è venuta qui in Italia, abbiamo viaggiato insieme, però proprio recentemente, 2 settimane fa, abbiamo deciso di non sentirci più perché la cosa era non era sostenibile, insomma, questa distanza eccessiva e niente, quindi stavamo vivendo in una bolla entrambi. Beh, vivevano in una bolla, ma evidentemente nessuno dei due aveva deciso di unire la sua bolla a quella di quell'altro. Potevano fare una bolla comune semovente. Le bolle hanno un senso perché volano, non stanno ferme, quindi ognuno dei due era ben ancorato comunque alla propria vita, giustamente, alle proprie abitudini, ai propri oneri. E la bella storia d'amore ha un senso romantico, affascinante, avventuroso, fortemente erotico, probabilmente quando ci si vede dopo tanto tempo, quando si percorrono tanti chilometri, ma a lungo andare è chiaro, l'amore deve trasformarsi e diventare qualcos'altro, se no rimane nel ricordo del grande amore della propria vita. Sì, si culla il ricordo, ci sono i pensieri, si accarezzano i momenti passati, si idealizza la persona, però è chiaro che la persona è giusto che prenda la sua vita, è giusto che anche noi riprendiamo la nostra vita, come è accaduto in questo caso, però uscita comunque dolorosa. A tra poco. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta. Attraversiamo confini ogni giorno, piccoli o grandi momenti che modificano l'arco della nostra vita e ci trasformano per sempre. Attimi che diventano storie indelebili nella nostra memoria. Linee d'ombra racconta proprio quegli attimi, piccoli o grandi episodi della nostra vita che ci hanno trasformato nelle persone che siamo, perché le nostre storie raccontano di noi molto più di qualsiasi presentazione. Raccontare, condividere stralci delle nostre vite è il miglior modo per affermare: ecco, io sono questo. Le linee d'ombra che abbiamo attraversato ci hanno mostrato spazi, luoghi e mondi che nemmeno noi sapevamo di poter abitare. Invia un episodio della tua vita che ha a che fare con un confine e il passaggio di quel confine a lineedombra@radio24.it. Una, massimo due pagine. E noi, ogni giorno, ci prendiamo lo spazio e il tempo per raccontarla. Linee d'ombra di Matteo Caccia, dal lunedì al venerdì alle 15 e il sabato alle 21.30 su Radio 24. Melog. Io ero un giovane medico, avevo 26 anni, avevo conseguito la laurea in medicina e volevo entrare alla scuola di specializzazione in pediatria. Per la prima, il primo esame era la pratica e non si entrava, era un periodo in cui al primo esame non si entrava. Al secondo anno, quando ho rifatto l'esame, mi hanno bocciato di nuovo. Questa cosa mi ha demoralizzato tantissimo, anche perché non era collegata alla preparazione, ma semplicemente alla raccomandazione. Non avendo avuto io una raccomandazione, mi hanno bocciato per la seconda volta. E qua è un'uscita obbligata, non è che è una scelta. Ha capito questa signora, oggi dottoressa, che in realtà le cose funzionavano, come si suol dire, in maniera autodenigratoria all'italiana. E quindi c'erano delle corsie preferenziali, probabilmente per i parenti, per gli amici, per i figli e via dicendo. Una triste, cruda e crudele realtà che però spesso ormai fa parte delle consuetudini, e se non ci si vuole piegare a queste consuetudini, chiaramente bisogna senz'altro cambiare ambiente, cambiare area. Abbiamo cambiato completamente argomento in questo caso, sempre nell'ambito della formula del modulo dei 30 secondi, stiamo adesso cercando di riportare a mente come erma, come insegna lezioni di vita, la storia di alcuni ascoltatori che parlano di momenti in cui sono sentiti veramente impotenti, frustrati, che non potevano fare nulla in qualcosa che soverchiava le loro possibilità di reazione, appunto come l'aspirante dottoressa che capisce che il meccanismo del nepotismo e del clientelismo è forte, radicato, strisciante e lei non può farci nulla. Io sono un insegnante, poi divenuto psicologo e psicoterapeuta, ho scritto un metodo per risolvere la dislessia che si trova in internet. Però c'è una specie di lobby medica per cui se non è considerata una malattia, la dislessia non viene accettata nessuna soluzione differente. Quindi non, questo metodo non passa, è bloccato, eppure risolverebbe molti problemi. Un'altra cosa è che ho scritto un libro con una teoria completa di cos'è il riso e cos'è il pianto, ma anche quello pure che se passa con gli editori che ci sono. Qua siamo in un altro ambito, bisogna fare un bel doppio salto mortale per definirlo, perché molte volte sono persone che sentono impotenti e frustrate di fronte a un'ingiustizia, quando sono soverchiati, impossibilitati a seguire la loro strada, quando c'è un ostacolo vigliacco sulla loro strada. Però gradualmente questa stessa impressione molte volte si può avere rispetto a proprie velleità, non voglio entrare in merito al nostro ascoltatore che ha inventato varie cose, ha scritto libri, via dicendo, e sente come ostile il mondo dell'accademia che non riconosce il suo valore. Devo dire che ci sono molti casi, noto e diffuso il fenomeno del genio incompreso, ma è altrettanto noto e diffuso il fenomeno dell'aspirante qualcosa che non ha in realtà gli strumenti oggettivi, concreti, per dare corpo e soddisfazione alla sua aspirazione, rimane sempre in un limbo in cui dice a se stesso che magari è colpa di quelli che non l'hanno capito, è colpa dell'umanità che non ha colto il suo splendore. A me è successo 3 anni fa di avere a che fare con l'Agenzia delle Entrate e purtroppo sono stata, diciamo, tra virgolette, punita ingiustamente. Questa cosa qua, questo rancore, perché poi ho dovuto pagare una grossa somma di denaro, ho fatto salti mortali, ma l'ho pagata tutta e tuttora mi sta rodendo ed è una cosa che non riesco proprio a dimenticare, perché ovviamente ha tolto risorse a me, alla mia famiglia e insomma mi ha creato tanti problemi. Ecco. Certo, quando ti arriva la busta dell'Agenzia delle Entrate c'è sempre da preoccuparsi. Anche con tutta la coscienza a posto, magari un piccolo errore, un'omissione, una dichiarazione sbagliata, un controllo, e sono dolori. Sono dolori che si pagano molto cari e rimane sempre comunque l'idea di subire un torto. Ma siamo in un paese in cui si pagano veramente tante tasse e l'impressione comunque di subire un torto è abbastanza presente tutte le volte che andiamo a pagare le tasse. Noi che le paghiamo, le persone che le pagano. Al contrario, c'è chi, proprio non sentirsi impotente e frustrato, le tasse non le paga, le elude, compie dei sotterfugi. In questo caso è un evasore. Bisogna decidere se è meglio sentirsi frustrati ma fare il proprio dovere di cittadini o sentirsi gratificati e furbacchioni e essere degli evasori. Ho avuto una giovinezza particolarmente sofferta sotto il lato del bullismo giovanile, appunto. Di fatto, quando poi è arrivato all'età di 18 anni di partire per il militare, pensavo di aver risolto, quantomeno fosse una valvola di sfogo, uscire dall'ambiente, cambiare aria, compagnia, eccetera. È stata una tragedia, perché io sono arrivato al congedo illimitato provvisorio al limite del baratro della depressione. Ecco, questo è il caso della vittima sacrificale per nascita. Molti hanno questa impressione, ma in molti casi realmente sono persone particolarmente timide, particolarmente introverse, con delle possibili neurodiversità che non gli fanno mettere in atto tutte le strategie sociali, ma c'è anche il fatto che gli ambienti scolastici spesso sono pieni di schifosi bulli che si approfittano dei compagni più inermi. È vero che nell'ambiente militare, ai tempi si faceva il servizio militare, il fenomeno del nonnismo era un pochino il lubrificante della vita quotidiana. Era abbastanza tollerato, si chiudeva un occhio. Insomma, sembrava non grave qualora non sfociasse nelle forme più gravi di sopruso e di crimine. Quindi questa persona vivrà e continuerà a vivere tutta la vita con l'idea che c'è sempre un complotto di persone spietate che si approfittano del suo essere probabilmente disponibile, non capace di reagire con forza alle provocazioni e ai soprusi, e quindi si sente, e forse è il caso che esca da questa condizione, almeno si sforzi a uscire, come vittima predestinata. In ogni ambiente in cui ci sono dei rapporti di forza in cui lui si misurerà, sarà sempre dalla parte di quelli che stanno con le spalle al muro, nel timore o anche nella realtà che altri possano sopraffarli, denigrarli, sbeffeggiarli. Perfetto, allora la mia situazione di frustrazione è durata 7 anni, 7 anni lavorativi in un ufficio con una collega più anziana di me, a cui dovevo rendere conto, molto acida, che mi vedeva come un ostacolo, una minaccia alla sua carriera. E quindi ho sopportato, anche perché c'era un rapporto di idealizzazione da parte mia nei suoi confronti, volevo a tutti i costi piacerle, imparare da lei, essere sua complice, e questa mi ha demolito, perché io non ce l'ho mai fatta e quindi mi sono ammalata tanto, tanto, tanto. Accade un po' questa sindrome da Stoccolma, ci si innamora del proprio aguzzino, del proprio carceriere, è un rapporto strano, singolare, rientra nelle sfaccettature delle nostre possibilità interiori di gestire rapporti con altri esseri umani, rientra in stati latenti, patologici, non lo so bene. Certo è che questa donna faceva di tutto per entrare nelle grazie della sua capa, mi sembra di piccolo rango, della responsabile del suo lavoro. Probabilmente essendo una carrierista frustrata a sua volta, che non mi sembra abbia fatto gran carriera, se l'unico reporter era questa signora, la vedeva come un ostacolo alla sua carriera, temeva che fosse più brava di lei, più giovane, più attiva, con maggiori strumenti professionali, e quindi la mobbizzava, la bullizzava, la maltrattava, e maltrattava una persona che aveva lei come punto di riferimento, come modello. Quindi un perverso rapporto sadomasochistico che si è risolto infatti con il cedimento, come sempre accade, della parte più debole. 1982, primo lavoro interessante, il progetto di una grande villa per un emigrante americano. L'emigrante sparisce, dopo, con fatica riusciamo a sapere che ha venduto il terreno con il nostro progetto. Un incontro in un bar affollato, questo si mette a urlare: come si permette a chiederci soldi? Io sono stato l'autista di Lyndon Johnson. E così si è pagato. Ragazzi, capita ogni tanto di sbattere la faccia con un truffatore. A volte sono dei simpatici truffatori, a volte sono persone molto affabili, molto amabili, e ogni volta con che noi ci ritroviamo scottati in questa vicenda, diciamo quanto siamo stati stupidi. In questo caso è un bel affare, un bel business, un bel lavoro per questo signore, fare una grande villa, costruirla e tutto, ma era qualcosa non funzionava, e infatti c'era l'ombra della truffa. Ha la fortuna di incontrare il truffatore, come sempre fanno, in questo caso sono persone brave, conoscono i meccanismi della mente e della sopraffazione della mente altrui, va in attacco e dice: lei come si permette, ma si vergogni. Subito lo mette in minoranza, con le spalle al muro, come se lui avesse una colpa, perché ha osato addirittura rivolgersi in maniera non corretta e sospettosa addirittura con l'autista del presidente, di un vecchio presidente degli Stati Uniti, ma nemmeno uno di quelli che sono passati alla storia per lungimiranza e apertura mentale. Ci fermiamo un istante. Melog. Ok, non credo che sia odio, ma non sopportazione verso tutti i ciclisti. Anch'io sono un ciclista e vado anche in macchina. Non vado in cerca di ammazzare nessuno, però i ciclisti fanno di tutto per ammazzare noi. Senza luce attraversano. Non li sopporto più. Cerco di chiamare i carabinieri ogni tanto che intervengono, ma non c'è niente da fare. Se potessero loro traforare con la bicicletta la macchina, probabilmente sarebbero molti automobilisti e non ciclisti. Tutto qui. Diciamo che questa telefonata potrebbe essere usata per un'infinità di argomenti. Le battaglie ataviche fra categorie perennemente in contrasto tra loro, automobilisti contro ciclisti. L'invidia di chi ha la forza di pedalare rispetto a chi comunque è legato a un motore che lo trasporta. La spocchia di chi si sente rappresentato in una categoria di rango superiore verso i suoi inferiori. Forse questa è la chiave migliore, perché in questa sezione dei 30 secondi io lanciai la provocazione di raccontarmi una volta che siamo stati infami verso persone più deboli di noi. Come prima abbiamo raccontato i soprusi, le frustrazioni in cui noi eravamo vittime, è facile raccontarsi come vittima. Come ci si racconta invece come aguzzini, come persona che in maniera gratuita e senz'altro immotivata e superflua infierisce contro una persona più debole o più sprovveduta? Allora no, io ho anche un odio profondo nei confronti dei miei vicini. Sono un branco di cervi che sti bastardi maledetti mi hanno mangiato tutto l'orto, verde, capucci, insalata, radicchio, eccetera, eccetera. E poi è arrivata la volpe e mi ha fatto fuori due galline, il gallo e anche la papera. Cosa posso fare? Devo dire che mi sorprende spesso il pubblico per le analogie che riesce a comporre, insospettabili. Parlavamo di persone discriminate e offese, e in questo caso il nostro ascoltatore si sente discriminato e offeso da una mandria di cervi che gli mangia l'insalata. i cervi sono i suoi nemici. I cervi hanno una personalità e un'umanizzazione così spiccata che sono quelli che vengono apposta per umiliarlo, per fargli un dispetto, a mangiare la sua insalata. Potrebbero scegliere l'insalata di un altro. Non sono animali in cerca di cibo, che dove vedono cibo se lo prendono. Devo parlare dei miei vicini ecuadoregni che ho avuto per un anno. Adesso per fortuna mi sono trasferito. Ogni sera facevano le loro feste dove chiamavano altri vicini ecuadoregni con grandi ballate di salsa, grandi ballate di bachata e la rimasta famosa la rueda, quindi sentivo tutti con i tacchi che facevano la rueda con la salsa e quindi noi abbiamo dovuto subire questo per un anno e senza soluzione. Certo è che sentire la rueda sulla testa può fare abbastanza fastidio, ma c'è anche da dire che viva la faccia di persone che fanno festa. Ora voi mi direte, la festa era la loro, non era di questo signore, e non era obbligato a sentirsi coinvolto nel festeggiamento dei suoi vicini. Ma quanto c'è in tutto questo di un senso profondo di, non dico discriminazione, ma fastidio per persone che hanno abitudini diverse dalle nostre, persone che si muovono in maniera diversa dalle nostre, che hanno maniere diverse anche di esprimere la socialità. E a tutto questo dovremo comunque, volenti o nolenti, abituarci. Le porto la testimonianza del condominio dove abitano i miei a Napoli, dove è stato occupato abusivamente uno spazio condominiale. Dopo che mio padre l'ha denunciato, tutto il condominio ha smesso praticamente di salutarlo e gli porta un odio viscerale perché ha coinvolto il condominio in questa battaglia legale per ripristinare lo stato, diciamo, dei fatti antecedente. E è un odio proprio di quelli inestinguibili che si consumano appunto quando c'è un agglomerato di esseri umani che divide una proprietà, alcune parti di una proprietà. Il condominio proprio questo è, sono delle parti comuni che vanno amministrate mettendo tutti d'accordo, e questo mettere tutti d'accordo sembra essere veramente una delle cose più difficili e più improponibili. E infatti tra le tante possibili maniere di discriminare una persona, in questo caso c'è la messa all'indice, l'ostracismo verso il condomino colpevole di aver agito contro l'interesse degli altri, ma per interesse personale. Un classico. Allora, si tratta di delle mie cagnoline praticamente che abbaiono durante il giorno, ma abbaiono non tutto il giorno, abbaiono qualche volta quando sono in giardino, davanti a un parco vedono altri cani che passano. Uh-huh. Una vicina che ha un cane anche lei è venuta a suonarmi il campanello dicendo che gli danno fastidio. Ma ripeto, non negli orari notturni, negli orari di riposo, ma durante le 5, le 6 del pomeriggio. Voglio dire, un cane abbaia, cosa devo fare? Direi, se la vedono tra loro, capirei delle dispute, delle discriminazioni di un amante degli animali e dei cani nei confronti di persone che in realtà non gradiscono avere animali in casa. In questo caso sono due canari a livello diverso, con cani diversi, con abitudini diverse. E quindi far collimare anche le reciproche abitudini dei reciproci cagnolini è un problema che io lascerei alla soluzione alle persone che si intendono di cani. In questo caso la faida si svolge sull'orario di quiete e sulla possibilità dei cani, che diventano animali quando rompono le scatole, diventano umanizzati quando gli dobbiamo fare le coccole, che i cani che non possono decidere loro quando abbaiare. È chiaro che quando abbaia il cane nel condominio è il sacro abbaio su cui nessuno può dire nulla. La sorpresa più grande è che l'odio non è il mio verso gli altri, bensì verso di me. Ma ancora più grande la sorpresa è che questo tipo di odio mi viene dalla famiglia di mio fratello e mio fratello. In poche parole, per farla breve, io ho restaurato casa, ho ricevuto la bellezza di 14 visite dei vigili urbani per presunte irregolarità nelle opere in corso. Invece poi è risultato tutto nella norma. Si capisce poco questa sorta di Totome Rumeni, odiatore di se stesso, cosa c'entri il fratello nel suo odio distruttivo. arrestato a casa, ha avuto tutte queste visite dei vigili. Probabilmente, immagino, come spesso accade nelle famiglie dilaniate da faide interne, che fosse il fratello a mandargli i controlli. Avrà telefonato anonimamente: guardate, lì c'è un abuso edilizio, guardate, lì c'è un'irregolarità. E logicamente i tutori della legge andavano a fare il sopralluogo, e i sopralluoghi erano a vuoto perché il nostro signore era in regola. Però volete mettere il fastidio di ricevere la visita, di aprire un istruttore, a dover dimostrare che lui era innocente? E questo era dovuto comunque al suo rapporto non risolto con il fratello. E tutto in 30 secondi. Alla prossima. Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it.